Sono bravissimi nel manipolare, controllare e umiliare il prossimo. Sono i narcisisti, una categoria della quale è praticamente impossibile riuscire a liberarsi. Ma come spiega lo psicoterapeuta Les Carter nel suo libro Difendersi dai narcisisti, il primo passo per tentare di convivere con loro è imparare a riconoscerli. Non vi è nulla di intrinsecamente sbagliato nell'avere forti convinzioni o opinioni riguardo al modo in cui dovrebbe svolgersi la propria vita. L'assenza di convinzioni ben concepite può portare a una vita infelice e priva di scopo. Il problema con i narcisisti, dunque, non è dovuto al fatto che hanno progetti personali, ma che rifiutano di riconoscere che anche agli altri può e deve essere permesso di decidere della propria vita. Sono così convinti della correttezza delle loro idee che stentano a tollerare chiunque la pensi diversamente. Per loro è molto più importante ritenersi nel giusto che cercare di capire il punto di vista o i desideri altrui. Il risultato di quest'abito mentale è l'esercizio di una costante pressione sugli altri per imporre la propria volontà in un modo che non concepisce il dissenso. Quando diciamo che qualcuno ha una personalità forte o energica, intendiamo dire che possiede una presenza autorevole che induce gli altri a prestargli attenzione e a secondarlo. Le persone dotate di solide attitudini alla leadership, valori positivi, capaci di incoraggiare apertamente gli altri o apprezzate per la loro statura spirituale, rilevano forza di carattere. Le persone forti possono diventare fonte di ispirazione per coloro che vedono in loro un modello di comportamento. Non è affatto probabile, invece, che i narcisisti con forte personalità sappiano ispirare gli altri. Le loro manifestazioni di forza tendono, al contrario, a soffocare e a invalidare. I narcisisti reprimono le caratteristiche positive negli altri e cercano di farsi largo a tutti i costi. Ai loro tentativi di manipolazione e controllo, la maggior parte delle persone reagisce in maniera molto negativa, opponendo rabbia, resistenza e discussioni alle quali il narcisista di solito controbatte testardamente con inflessibilità ancora maggiore. Il risultato finale è che la relazione ne soffre o viene distrutta. Nei rapporti equilibrati, i partner parlano tra loro, pianificano cambiamenti, ragionano insieme senza imporsi sulle preferenze e i desideri dell'altro. I narcisisti, invece, non sono propensi a comunicare in maniera costruttiva o rispettosa. Vogliono solo raggiungere i loro obiettivi e l'atteggiamento compromissorio, quello del dare e ricevere, è troppo rischioso. Potrebbero non ottenere ciò che vogliono. Per costringere gli altri a essere d'accordo con loro, ricorrono invece a tattiche aggressive. Tirano fuori i loro assi nella manica verbali. Dovresti, devi, sarebbe meglio, occorre, sei tenuto a. Fanno leva sul senso del dovere e della riconoscenza per intimidire chi si oppone loro. Se vi trovate sotto il fuoco di un simile sbarramento, sappiate che finirete col sentirvi in colpa solo perché non siete d'accordo col narcisista con cui avete a che fare. Nelle interazioni con gli altri, è tipico di un narcisista ipercontrollante far capire o perfino dire apertamente che lui è l'unico a sapere che cosa fare in ogni situazione possibile. Quando un narcisista avverte che non siete d'accordo, probabilmente reagisce contestandovi duramente e cercando di costringervi ad accondiscendere. Il risultato sarà un inutile scambio di accuse, attacchi e argomentazioni. Quando si cerca di cambiare un manipolatore cronico, in genere si è prigionieri di una forma di pensiero mitico. In altri termini, è la fantasia, non la realtà, a guidare i vostri sforzi. Supporre che in qualche modo le nostre parole improvvisamente potranno indurre il narcisista a cambiare rotta e diventare una persona empatica e ragionevole è pura fantasia. Quando ci si sente frustrati dal comportamento del narcisista, preghiere e perorazioni possono sembrare un'opzione valida, ma alla fine questo sistema non funziona. Ci deve essere un altro modo. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Les Carter, Difendersi dai narcisisti, come non farsi rovinare la vita da chi pensa solo a se stesso. Tea Editore, 224 pagine, 12 euro. Non sono ancora morta, dice Mia Martini nella sua ultima intervista, criticando l'atteggiamento di pubblico e stampa che la consideravano ormai una specie di reliquia per collezionisti. Rimasta inedita fino ad oggi, l'intervista è stata realizzata da Maurizio Gregorini nell'aprile 1995, un mese prima della scomparsa di Mimì. Vorrei essere apprezzata per quello che sono e non come un'artista strana.